Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Vabbè, la conchiglia viene dal mare e quindi si sente il mare quando lo metti vicino sì, all'orecchio. Sì, credo che sia proprio questa la spiegazione scientifica, sì. I titoli, adesso. Perché, se avviciniamo una conchiglia all'orecchio, si sente il mare? Quali sono i segreti per un castello di sabbia perfetto? Vi raccontiamo la scienza sotto l'ombrellone. Ricercatori in piazza a difendere la sperimentazione animale con il contorno di contestazione animalista. A 60 anni dalla prima ascesa del K2, una spedizione italo-pakistana sta raggiungendo il campo base per installare una stazione meteorologica del nostro CNR. Ci può essere un collegamento tra i dirigibili e le lavatrici? Oggi no, ma in un futuro non lontano è molto probabile che vi sia. E le conchiglie che si trovano in montagna, se tu le porgi all'orecchio, si sente l'aria di montagna. La conchiglia di montagna. Sì, è proprio così. Ma ci sono le conchiglie in montagna. Sì. Questo è tutto scritto. Quindi non è una nostra cosa. È tutto scritto in un bel libro, La scienza sotto l'ombrellone, un libro divertente, molto carino. Anzi, se volete stupire i vostri figli al mare raccontando alcune delle spiegazioni, cose esatte, lo potete fare con il libro di Andrea Gentile. Ciao Andrea. Ciao Chiara e ciao Federico. Ciao, ben arrivati. Ecco, il libro è edito da Codice Edizioni, lo ricordiamo, La scienza sotto l'ombrellone. Dunque, abbiamo detto, si sente il mare perché le conchiglie stanno sono al mare. Sono al mare, quelle di montagna senti la montagna. Giusto, no? C'è scritto sul tuo libro. Assolutamente, no. A parte gli scherzi, basta mettere due mani a coppia accanto all'orecchio per sentire il mare allo stesso modo, quindi questo principio funziona un po' poco. Infatti la ragione principale è perché le conchiglie sono degli amplificatori naturali, cioè nel momento in cui le avviciniamo all'orecchio le cavità all'interno della conchiglia stessa amplificano quelle onde sonore che sono di sottofondo, che non si sentono normalmente, che l'orecchio umano non riesce a sentire. Quel rumore viene amplificato e noi sentiamo questo brusio. Il principio è lo stesso che è alla base poi della musica, in particolare di una chitarra che ha tutta una cavità dietro le corde che è lì proprio per amplificare la cassa di risonanza, si chiama così? Esattamente. E lo stesso funziona anche mettendo le mani vicino all'orecchio a coppa. Ma scusa, non c'è a Hollywood un famoso teatro che si vede anche in tanti film che è proprio fatto a conchiglia sopra l'orchestra, no? Se non sbaglio, per lo stesso motivo. Esatto, certo. Molte strutture infatti richiamano quelle naturali proprio perché sono delle soluzioni abbastanza ingegnose che effettivamente funzionano. Sempre a proposito di conchiglie, a me piacciono tantissimo perché hanno un'architettura strepitosa, addirittura hanno forme geometriche che ricordano i frattali, qui vabbè adesso andiamo sulla matematica pesantissima, però qualcosa sulla forma delle conchiglie ce la devi dire, cioè sono talmente particolari, diverse, ma talmente perfette se le vediamo in sezione che sembra incredibile che le possa creare degli animaletti minuscoli. Sì, questi animaletti dei molluschi sono dei perfetti ingegneri. Dei perfetti ingegneri perché costruiscono le conchiglie a partire da pochi elementi. Una conchiglia è fatta al 95% di carbonato di calcio, di CaCO3, se vogliamo ricordare un po' di chimica, e poi dal 5% invece da una sostanza che si chiama conchiolina, che è un insieme di molecole organiche. Questi animali riescono a costruire queste fantastiche strutture come degli ingegneri, in particolare costruiscono uno scheletro, come se si trattasse di un palazzo in cemento armato, uno scheletro che nel palazzo è fatto di un'armatura di acciaio, mentre nel caso del mollusco si tratta semplicemente di una struttura di conchiolina, la sostanza di cui parlavo prima. E sopra questa struttura di conchiolina, come il cemento viene gettato nei palazzi, questi animali riescono a produrre il carbonato di calcio e fa sì che si formi questa struttura molto molto particolare. Sì, però la cosa impressionante è che milioni di miliardi di conchiglie, loro hanno un file su cui c'è scritta quella forma lì, questo è pazzesco. No? Assolutamente. Impressionante. Però il principio di funzionamento in diversi molluschi è proprio che esiste una struttura sul corpo del mollusco, che è il mantello, che è in grado di aumentare all'interno di una cavità talmente tanto la concentrazione del CaCO3, del carbonato di calcio, che il carbonato di calcio si cristallizza e si forma attorno a questo scheletro, secondo una struttura che è sempre molto molto regolare. Vabbè, basta conchiglie. Cosa abbiamo? Una piccola domanda, sempre a proposito di carbonato di calcio. Ad esempio, parliamo di perle e di ostriche, è possibile trovarle? È possibile trovarle? La risposta è sì. Ma come si formano? Era la mia domanda. È un procedimento abbastanza raro, è per questo che poi alla fine le coltiviamo, cioè cerchiamo noi di produrre delle perle, perché sono degli oggetti molto molto rari. In questa cavità in cui viene prodotta la conchiglia, ogni tanto in natura entra per caso una particella estranea, vuoi un piccolo granello di sabbia per esempio. Questa particella irrita le cellule del mantello, che sono responsabili della formazione della conchiglia. E le cellule del mantello iniziano a produrre e a praticamente avvolgere questo granello della sostanza che producono, in particolare la madreperla, che è una sostanza chiaramente molto preziosa, ma che è formata da conchiolina e da aragonite, che è una forma di calcare, di carbonato di calcio. Quindi è una risposta. Nel corso degli anni si forma la perla. Ok, cioè è una risposta a un agente esterno irritante. Sì, è una sorta di difesa. Io sono a posto sulle conchiglie. Adesso tu cosa vuoi sapere? C'è questa relazione fra le meduse e la pipì. Cioè, Andrea. Bene, sì, poi questo qui è un mito che è stato amplificato per le persone della mia generazione dalla trasmissione Friends negli anni 90, in cui sembra essere una soluzione buona per tutte le punture di Medusa, quella di urinare sulla parte colpita. Cioè, perché uno dei protagonisti di Friends l'ha fatto in spiaggia? Ebbene sì, questa bella procedura imbarazzante che sconsiglio di fare in pubblico. Ma perché non funziona anche, Andrea? Perché oltretutto non funziona e può diventare addirittura dannosa. E infatti ci sono studi chiaramente molto vasti sulle punture di medusa, esistono migliaia e migliaia di specie, quindi non esistono diciamo, soluzioni valide in tutti i modi. Però in ogni caso la cosa principale da fare è utilizzare per sciacquare la parte colpita dell'acqua di mare, che è la cosa che si può trovare più facilmente in spiaggia. Un po' di acqua e sale e via. Abbiamo pochi minuti per chiudere, però io ho bisogno di un chiarimento. Allora, stupiremo tutti in spiaggia costruendo un castello di sabbia perfetto. Quali sono i segreti, Andrea? Allora, chiaramente gli ingredienti per un castello di sabbia perfetto sono l'acqua e la sabbia fine. Chiaramente. Le proporzioni tra queste due, per avere un maggiore effetto di aderenza tra i singoli granelli di sabbia, che quando sono umidi sono praticamente attaccati da dei piccoli ponti di acqua proprio per la tensione superficiale dei liquidi, allora per riuscire a renderli così aderenti dei ricercatori hanno studiato che bisogna unire una parte di acqua a 99 parti di sabbia, quindi essenzialmente l'1% deve essere acqua. In questo modo si riescono a costruire castelli di sabbia molto molto resistenti, e questi ricercatori quindi non molto molto bagnata, ecco, state attenti perché sennò crolla. C'è troppo. Assolutamente, perché poi l'acqua ingloba il granello e questi piccoli ponti non ci sono più. Pensare che questi ricercatori sono riusciti a ottenere una torre alta 2,5 metri addirittura con un raggio di 20 centimetri, quindi insomma sanno il fatto loro, si sono sporcati le mani. Questi hanno vinto gli Ig Nobel però. Ma scusa Rico, cosa fai con un cucchiaio, pesi 99 e poi è micidiale. Cioè, fare in spiaggia devi fare un po' di esperimenti, secondo me. Comunque avete capito, non dovete mettere tanta acqua. Cemento, che con l'acqua ti viene un bel castellone. Esatto. Va bene Andrea, grazie. Io ricordo il titolo del tuo libro, in realtà ci sono tantissime altre storie che tu racconti e spiegazioni che tu dai sulla scienza sotto l'ombrellone, Edizioni Codice. Grazie Andrea, buona estate. Grazie a voi. Ciao ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Protest, associazione di ricercatori impegnata a comunicare l'importanza della sperimentazione animale nella ricerca. Sabato scorso hanno organizzato una manifestazione a Milano con vari contributi, ma c'era anche a distanza una presenza di animalisti. Allora, adesso breve documentario sull'evento. Buongiorno a tutti! Benvenuti, bentrovati in questa bellissima giornata. Allora ragazzi, vorrei chiamare qua da me la vicepresidente di Protesta Italia e lascio a lei la parola. Buongiorno a tutti. Allora, anzitutto vi devo fare un complimento. Lo so che vi viene fatto ogni anno, ma ogni anno ci stupiamo di questa cosa, di quanto siete belli rispetto a come venite dipinti su Facebook e su internet dalla compagine animalista radicale. Allora, veramente, guardandovi ci si rende conto che tante di quelle cose che vengono dette su internet sono false. Allora, continuiamo col programma che oggi è nutritissimo, abbiamo un sacco di relatori oggi. E dovete sapere una cosa, perché ogni tanto succedono delle cose che non sono belle da vedere. Ad esempio, non più tardi di un paio di mesi fa, c'è stata una raccolta fondi che è stata bloccata. Perché è stata bloccata? Perché un po' di gente ha scritto delle lettere per protestare su questa raccolta fondi, che era una raccolta fondi a favore della ricerca. La ricerca in particolare era fatta per una malattia molto grave, che è la sindrome di Rett, una malattia rara. Oggi abbiamo qua una ricercatrice che si occupa proprio di sindrome di Rett e ci spiegherà cosa si fa nella ricerca, cosa si può fare e qualcosa anche sulla malattia. Un applauso per la dottoressa Charlotte Kilstrup. Allora, io lavoro all'Università dell'Insubria e insieme alla professoressa Nicoletta Landsbergo coordino un gruppo di ricerca che studia la sindrome di Rett. La sindrome di Rett è una terribile malattia genetica di neurosviluppo che colpisce quasi esclusivamente le femmine. E queste femmine nascono apparentemente sane e poi dopo un periodo di circa 18-36 mesi di vita iniziano a sviluppare i sintomi. I primi sintomi si vedono perché le bambine si tirano fuori dal mondo intorno a loro e dopo questo e hanno questi sintomi autistici. Poco dopo cominciano a perdere le abilità che avevano acquisite, non usano più le mani per afferrare le cose, non possono più pronunciare le parole che avevano imparato, non possono più camminare. Alcuni muoiono quando hanno circa 10 anni, ma spesso possono anche sopravvivere fino all'età adulto. Loro hanno una cosa molto particolare, che è lo sguardo, gli occhi, perché queste bambine possono comunicare con gli occhi. E se uno li guarda negli occhi, esse sembra vedere una persona viva chiusa in una gabbia, che è questo corpo che non risponde più. E quello che sappiamo oggi, grazie alla sperimentazione animale e grazie a tanti studi che sono stati fatti negli ultimi anni, è che forse riusciamo un giorno a tirare fuori queste bambine dalla gabbia in cui vivono. Perché con un modello murino, dove è stata applicata una specie di terapia genica che si può fare sul topo ma non sull'uomo adesso, sappiamo che la malattia nel topo è reversibile. Il topo può riprendere tutte le funzioni normali e questo è veramente una meraviglia. Stiamo cercando farmaci mirati contro alcuni dei sintomi per almeno migliorare la vita, la qualità di vita di queste bambine. Per fare questi esperimenti, ovviamente noi stiamo seguendo tutta la legge a riguardo. I nostri progetti di ricerca vengono valutati da un comitato etico. E a questo punto io non capisco perché noi ci dobbiamo vergognare di fare il nostro lavoro. Però all'inizio di quest'anno abbiamo attraversato un periodo veramente difficile nel laboratorio. Noi siamo molto fortunati di avere una collaborazione con un'associazione di genitori di queste bambine con la sindrome di Rett, un'associazione che si chiama Pro Rett Ricerca. E loro quest'anno, all'inizio di quest'anno, avevano stabilito una collaborazione con la squadra femminile di pallavolo a Busto Arsizio, unendo Yamamae, per raccogliere soldi per il laboratorio del nostro laboratorio. Purtroppo ci sono stati protesti molto molto pesanti dagli animalisti locali a Busto Arsizio. E questo ha fatto cancellare non solo questo evento di beneficenza, ma anche ad accuse molto pesanti, accuse che non c'entravano niente con la realtà. Noi siamo stati accusati di fare vivisezione, di torturare gli animali, di avere un guadagno economico dall'industria farmaceutica e di fare una ricerca inutile. Allora, noi stiamo facendo un lavoro e seguiamo tutte le leggi che è necessario per fare questo lavoro e non capisco perché io devo accettare queste accuse. Grazie. E come avete sentito, la dottoressa Kirstrup ha parlato appunto di sindrome di Rett. E oggi abbiamo qua Luisella, che è la mamma di Martina, che è una bambina appunto affetta da sindrome di Rett. Prego. Buongiorno a tutti. Sono Luisella, la mamma di Martina, che ha 12 anni e ha la sindrome di Rett. Adesso volevo un attimino farvi capire com'è la vita con una bambina con questa sindrome, che è veramente una delle più gravi che esiste, insomma, al mondo. Vivere con Martina è come vivere in simbiosi, vivere una doppia vita. Sono io che decido cosa lei deve fare, dove andare, chi incontrare, cosa mangiare, come vestirsi, quando bere e quando andare in bagno. Sono io che devo capire quello di cui lei ha bisogno. Sono io che devo indovinare che cosa le fa male o cosa c'è che non va quando non sta bene. Chi mi conosce sa che non mi lamento quasi mai e che adoro Martina e non la cambierei per nulla al mondo. Quello che però vorrei per lei è una vita con meno ostacoli, una vita magari senza farmaci. Ora Martina non ha futuro, io e suo papà non siamo eterni e quando non ci saremo più non ci sarà più nessuno che possa capirla ed aiutarla. Io non voglio che lei sia solo accudita come si fa con un animaletto, anzi gli animali hanno più libertà di scelta di mia figlia sicuramente. Ecco perché spero e credo nella ricerca, che può essere di ogni genere, basta che ci sia e che sia veloce. Poi qualche anno fa, grazie alla sperimentazione animale, è stato dimostrato che non c'è neurodegenerazione. Il topo guarisce completamente con un artificio genetico e quindi medici e ricercatori credono che anche l'uomo possa o guarire o almeno migliorare molto. La cosa però che mi fa più male è quando viene detto che la sperimentazione animale è solo una questione di lucro delle case farmaceutiche. La sindrome di Rett, come ripeto, è una malattia molto rara, una su 10.000. Mi spiegate che cosa ci guadagnerebbero le case farmaceutiche a produrre farmaci per curare questa malattia? Mi avvicino agli animalisti e sono a un 30 metri. Cercando delle persone che si nascondono tra di loro, mortacci loro se si facessero vedere. Ora ci mettiamo a piangere adesso. Cosa? Ma voi non avete pagine con sue insulti? Noi abbiamo pagine di animalisti, di animalismo, postiamo notizie riguardanti gli animali, allevamenti, maltrattamenti, condividiamo i vari animali da poter poi dare in adozione, ma non abbiamo pagine contro di loro, non ce ne sono. Io so, ma ci sono, vedete! Boia, fatti vedere, coraggioso di merda, sei tu il boia? Vieni, vieni qua, fatti vedere! Boia Faust. Chi è? È un personaggio che è un troll della loro pagina, che fino adesso ha rotto le palle, ha fatto la sentinella per questa manifestazione, solo che non si fa vedere chi è. Ma cosa fa questo qua? No, niente, non si sa che cosa fa, loro non si espongono poi come... Delizzotti! E vieni qua, porca troia! Chi è Melisotti? Allora, Delizzotti è questo, con la maglietta bianca, con Marco Delizzotti, è un medico chirurgo che si è laureato, penso, 2 anni fa, e lui è uno dei protest, mi pare che sia il coordinatore scientifico. Con Giuliano Grignaschi, che è responsabile dello stabulario, l'Istituto Mario Negri, lo stabulario dove appunto si tengono tutti gli animali, no? Beh, noi abbiamo praticamente solo roditori, anzi, esclusivamente roditori. Allora, qui state facendo questa manifestazione e a pochi metri era previsto, ci sono uno dei tanti gruppi animalisti che vi dice delle cose tremende, però ci sono stati e ci sono degli altri momenti, per esempio molto recentemente a Salerno, nel quale il confronto con alcune associazioni che sono comunque a protezione, no, degli animali, insomma le cose si riescono a dire, è andata bene. Sì, sì, sì, assolutamente. A Salerno è stata una giornata organizzata dagli studenti dell'università in collaborazione con alcuni professori. È stata una tavola rotonda, un momento di riflessione assolutamente molto utile dove insieme appunto a delle figure di alcune associazioni che si occupano della protezione degli animali, siamo riusciti finalmente a parlare, ad intavolare una discussione che è assolutamente costruttiva, partendo dal concetto che a tutti interessa la salute dell'uomo e interessa la salute dell'animale. Per tutti noi queste due cose sono un valore. Sicuramente entrambi abbiamo la volontà di arrivare al più presto a trovare dei metodi di ricerca scientifici che possano prescindere dall'utilizzo dell'animale. Quello che ci differenzia è che da una parte c'è una spinta un po' più forte ad arrivarci, anche se non ci sono ancora le condizioni ideali, mentre noi siamo un po' più cauti e andiamo un po' più con i piedi di piombo, abbiamo un po' più una visione rigorosa del metodo scientifico. Ambra Giulia Marelli, vicepresidentessa di Protest. Io sono appena stato sul fronte opposto animalisti. Loro mi hanno detto però che ci sono anche un sacco di pagine Facebook sul fronte pro ricerca che però lancia loro degli insulti tremendi, anche delle minacce. Ma allora, anzitutto ci tengo a specificare che Protest si dissocia da qualunque tipo di minaccia loro possa ricevere, perché noi crediamo in una divulgazione fatta in modo serio della ricerca e non nel muro contro muro e assolutamente non nelle minacce né negli insulti alle persone. Detto questo, devo dire che la cosa mi lascia un po' perplessa, nel senso che sicuramente noi abbiamo decine di migliaia di sostenitori, può essere che qualcuno ogni tanto si lasci un po' andare. Tuttavia, quello che di solito si vede è esattamente il contrario, cioè che molti estremisti animalisti vengono sulle pagine che sono a favore della ricerca a insultare pesantemente e poi si aspettano magari che nessuno gli risponda. La gente ci prova magari ad essere moderata. Può capitare che qualche insulto scappi, noi comunque ci dissociamo da questi insulti, però quello che si vede più spesso è che le loro pagine internet, Facebook e quant'altro diffondano delle grosse calunnie nei confronti dei ricercatori, definendoci macellai, assassini, novelli Mengele e cose di questo genere, minacciandoci di morte. Io stessa ho 5 stalker, direi che è abbastanza un rivoltare la frittata dire delle cose del genere. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mi pare di aver capito che c'è un vento d'alta quota adesso nella telefonata che mandiamo. Un vento d'alta quota, direi proprio di sì, di altissima quota. Andiamo ad Ascoli, che non è nelle Marche, perché non è Ascoli Piceno, ma è bensì ai piedi del K2. Ci colleghiamo con Marcello Alborghetti. Marcello, ci senti? Sì, mi sento perfettamente in questo momento. Oh, fantastico. Piacere. Abbiamo provato a fare un po' di prove prima, che erano andate male, ma ora ci siamo. Ci allora, Marcello, abbiamo detto che sei ad Ascoli, alla porta d'ingresso di Baltoro, sì, e che è anche appunto ai piedi del K2. Tu stai portando avanti una missione insieme a degli alpinisti che ti precedono, degli alpinisti pakistani, che stanno dopo 60 anni tentando appunto, ritentando per celebrare appunto la celebre ascesa di 60 anni fa di Lacedelli e di Compagnoni del 1954. Vai, prova a descriverci dove sei. Io sono ad Ascoli in questo momento, quasi ad Ascoli. Intorno a me ci sono solo alte montagne e un paesaggio fantastico. Sono all'inizio del Baltoro. Il mio compito di questa missione sarà quello di installare un GPS Master al K2 Memorial. GPS Master che servirà per la misurazione del profilo altimetrico del K2. Altro mio compito sarà quello di insegnare agli alpinisti l'utilizzo del GPS controller, che è quello che salirà il K2. Il compito di chi salirà la vetta sarà quello di accendere il GPS a ogni campo base per circa un quarto d'ora e così. Come sentite, è andata giù la comunicazione, voi adesso sentite una cosa tutta bella dritta, pur interrotta, ma noi è un'ora che cerchiamo di parlare con il K2. E certo, insomma, non è un'impresa non è facile come anche telefonare questa ad Ascoli, appunto, Ascoli Piceno. Forse qualcuno può spiegarci qualcosa, il professor Giorgio Poretti. Buonasera Poretti. Buonasera, buonasera. Lei è professore dell'Università di Trieste, ricercatore di EVK2CNR, che è appunto l'associazione che fa ricerca scientifica e che ha organizzato questa spedizione italo-pakistana di cui abbiamo brevemente parlato con Marcello Alborghetti. Ecco, Marcello ci ha descritto un pochino degli strumenti tecnologicamente molto avanzati che lui si sta portando dietro e che installerà al campo base del K2, e però ci li deve rendere comprensibili. Ecco, lui ha parlato di GPS Master, certo per voi saranno strumenti sofisticatissimi, ma dovete farci capire a cosa servono. Questi strumenti sono, come dice lei, molto sofisticati, sono dei bei strumenti di posizionamento satellitare che hanno lo scopo di determinare con la massima precisione la posizione nelle quali si trova il ricercatore. Solamente che questa precisione aumenta se noi abbiamo come riferimento un altro strumento analogo che funge da stazione master. E quindi gli scalatori che andranno sulla cima del K2, se vogliono avere una buona precisione del tragitto che faranno andando in alto, devono avere un appoggio a terra, diciamo, al campo base, che sarà proprio determinato dalla stazione che Marcello sta portando avanti. Io tra un paio di giorni porterò un'altra stazione ancora più lontana con la quale noi ci collegheremo gli uni l'uno con l'altro per avere un profilo che sia il più affidabile possibile. Questo è lo scopo, diciamo, della parte scientifica di questo progetto. Ecco, allora abbiamo parlato di GPS, in realtà la missione racchiude anche, si porta dietro degli strumenti anche che ci danno indicazioni sulle condizioni ambientali, una sorta di stazione meteo? Certamente, e questo è, diciamo, è l'altro scopo di questa missione, quello di determinare le condizioni meteo che si verificano in questa stagione. E vi dico subito che è una stagione molto delicata, perché è la stagione nella quale cominciano i monsoni e quindi tutte le questioni che riguardano la meteorologia sono molto molto variabili. Senta Boretti, però lo scopo è una misurazione, un'altra ulteriore misurazione dell'altezza di queste montagne. Com'è questa storia che insomma non si riesce ad avere l'altezza esatta? Naturalmente io non penso che ci possano essere differenze di qualche centinaio di metri, sono ormai questioni di metri, però non ce l'abbiamo. Beh, c'è una diatriba anche storica che ha visto insomma storica, il K2 a un certo punto superare l'Everest e viceversa. Sembrava che fosse 200 metri più basso. No. Questo qui è una cosa che è stata sfatata nel 1987 perché un ricercatore americano è andato al campo base del K2 con un GPS che aveva le batterie in avaria aveva lanciato questo, potrebbe essere che la montagna sia più alta dell'Everest. Lì c'è Desio ha avuto, il professor Dito Desio ha avuto il dubbio e ha voluto verificare, hanno verificato subito, hanno sfatato questa qua ed è rimasta la supremazia dell'Everest sul K2. Però la questione è quanto precisa è la misura, e qui vengono fuori le cose delicate. Cosa vuol dire la precisione di una misura? Che cosa vuol dire l'altezza della montagna? Ci sono due cose molto importanti. Noi e voi misurate le montagne, misuriamo le montagne sul livello medio del mare. Ora lei capisce che il livello medio del mare è variabile, è mica lo stesso, è un po' lontano dal monte Everest, va bene? Quindi c'è una possibilità di errore in questa misura qui, nella determinazione di quello che noi ricercatori di geodesia chiamiamo il geoide, cioè il livello medio del mare sotto le montagne, come sotto la terra, eccetera. E questo viene determinato in base a misure di gravità. Quindi misure di gravità messe insieme con le misure, diciamo, satellitari portano a determinare quale sarebbe il livello medio del mare. A cui fa riferimento. Ma perché, mi scusi Boretti, in effetti lei sentendola mi fa venire in mente che proprio per questioni di masse e quindi gravitazionali, e noi abbiamo delle differenze, se non sbaglio il mare intorno all'Australia è circa un 100 metri più alto di quello il che abbiamo nel... Esatto, a 100 metri sotto l'Everest siamo a 21,8 metri, quindi a Trieste, bene, dove mi trovo io, abbiamo 45 metri di differenza tra quello che è il geoide e quelle misure satellitari che noi otteniamo. Però se noi abbiamo questi numeri riusciamo a fare in qualche modo una stima più precisa, cioè calcolando l'errore? Ed è questo il nostro mestiere, cioè quello di andare a misurare la gravità e per mezzo di calcoli matematici, io sono nel Dipartimento di Matematica, determinare quale sarebbe l'andamento del livello del mare se il mare fosse libero di scorrere sotto i continenti. E quindi trovate un riferimento standard. Però poi dopo, quando arriviamo sulla punta della montagna, lì come la mettiamo? Perché immagino appunto che ormai il problema sia qualche metro in più o forse addirittura anche frazioni di metro, no? Lì che cosa c'è? C'è una sensibilità delle apparecchiature tali da poterci dare conto proprio degli ultimi pezzi di materia di questa montagna? Allora, la questione riguarda la misura che noi effettuiamo per mezzo del GPS. Il GPS, se ancorato ad una stazione master, che è quella che andrò a installare io a Scardu, riesce ad avere una precisione di alcuni centimetri. Ah, ecco. Siamo a posto, certo. Però il livello del mare, questo qua, bisogna calcolarselo dopo o prima, perché è già stato calcolato il livello del mare, perché l'ho fatto anni fa. E quindi fare la correzione. E in base a quei calcoli noi arriviamo all'altezza più precisa della montagna. C'è ancora però una cosa che dobbiamo tenere presente, che è sulla cima della montagna noi abbiamo la neve. E quanto è profonda la neve rispetto a che cosa misuriamo? Rispetto alla neve o rispetto alla roccia sottostante? La roccia, ovviamente, no? Per questo noi abbiamo costruito 7-8 anni fa uno strumento che è stato portato in cima all'Everest e lì abbiamo misurato la profondità della neve lungo un certo profilo, abbiamo ricostruito praticamente in modo matematico la superficie rocciosa della montagna e la superficie nevosa sulla cima della montagna. In base a questo abbiamo trovato un nuovo valore. Resta adesso ancora da determinare con maggiore precisione quale è il geoide e quale è, cioè, il livello medio del mare sotto la montagna. Per questo ci sono dei calcoli già effettuati, ma noi vorremmo fare un calcolo più preciso. Vi dico solamente un piccolo aneddoto. Sì. Io ho misurato la misura del Cervino, l'altezza del Cervino, e insieme a dei colleghi svizzeri. E quando ci siamo messi a tavolino a guardare quello che è venuto fuori dalla mia e dalla loro misura, abbiamo trovato 20 centimetri di differenza. Ui. Come mai? Come mai non è possibile? No. E invece è possibilissimo, perché per loro, per noi, va bene, il livello del mare inizia a Genova. Per gli svizzeri che non hanno mare c'è una media tra Genova e Bordeaux e quindi c'è un invisibile gradino di 20 centimetri tra l'uno 20 centimetri, e l'altro. 20 centimetri, pochissimo, ma c'è una differenza. Certo, e lì invece in Himalaya la differenza è molto maggiore, perché se noi misuriamo rispetto al Golfo del Bengala siamo a 900 chilometri di distanza, mentre le misure precedenti che noi abbiamo fatto in collaborazione con i cinesi, con i ricercatori della Repubblica Cinese, loro iniziano a misurare dal Mar Giallo e sono 3.000 5.000 chilometri di distanza, lei capisce che comunque, per quanto uno possa essere preciso nel misurare certe cose, c'è la possibilità di un notevole... Beh, qui insomma dovete trovarvi a avere un mare comune, perché ce n'è troppo. Esatto, esatto. Ed è questo quello che noi stiamo proponendo, e cioè il calcolo del geoide del Nepal, che ci dia un livello del mare ancorato con le misure indiane. Bene, bene, c'è tutto chiaro. Allora, intanto grazie Poretti, anche lei sta per partire, quindi buon viaggio e fateci sapere i risultati al ritorno, Ma proprio subito no, perché bisogna fare un po' bene, di conto. Va bene, abbiamo tempo, elaborateli. Ci vorrà un po' di tempo, okay. Ma lo faremo sentire, faremo sapere. Grazie, buona ricerca. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. All'appuntamento SMAU a Bologna un paio di settimane fa ho incontrato l'ingegner Mauro Madonia nella sezione SMAU organizzata da Aster, dedicata alla ricerca. Aster è l'associazione che mette insieme le quattro università emiliane. E con Mauro Madonia, che adesso si presenterà, ho parlato di dirigibili e anche lavatrici. Lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nel centro interdipartimentale dell'università, che si chiama Enetec, e ci occupiamo di ricerca sostenibile sia per gli edifici e in questo caso in generale sull'energetica, da cui infatti il progetto qua davanti. Questo è un modello decisamente in scala ridotta, niente proprio di meno che di un dirigibile? Un dirigibile del futuro, sì. Nel giro, speriamo, di 10 anni dovremmo essere in grado di avere il primo prototipo volante funzionante di questo dirigibile, che sarà finalizzato al trasporto di persone e merci come però una nave da crociera, soltanto quindi alta quota, 15-16 km quindi altitudine. Quanto è grande, quanta gente? Il dirigibile sarà grande circa 240 metri di larghezza, 400 metri quindi di lunghezza e circa 80 metri di altezza. Quindi decisamente una nave. Esatto, quindi molto più grande forse di una nave, perché ci sono navi che arrivano a 300, quindi navi da crociera a 300 metri. Questo comunque sarà il velivolo più grande mai costruito dall'uomo. Oh, siccome potrebbe sembrare che una cosa di questo genere sia, lei in ingegnere potrebbe essere, come dire, un autore di fumetti, di fantascienza, allora questo è anche un progetto europeo, cioè non è nemmeno un'iniziativa di un singolo istituto, è un progetto europeo finanziato quindi con partner anche in Europa. Abbiamo 12 partner che collaborano con noi su questo progetto, che tra l'altro sono già quasi 2 anni e mezzo che lavoriamo su questo lavoro, per cui la progettazione preliminare è quasi, raggiunge quasi il termine, con due o tre dimostratori che verranno realizzati entro la fine di quest'anno. Tra cioè cui dei prototipi di che dimensione? Due saranno piccoli, perché dovranno dimostrare la capacità dei dirigibili più piccoli che vede qua, quindi per poter che siano in grado di connettersi a quello più grande. Perché per portare sulla gente. Esatto, perché quello più grande rimarrà sempre in quota, mentre quello piccolo dovrà portare le persone dalla terra fino alla quota quindi di volo di quello grande. Per cui, ed è completamente green, per questo l'Unione Europea è stata in grado di finanziarci, perché ha accettato il progetto come completamente green, non saranno utilizzati, cioè combustibili fossili, mi scusi. Senta, la tradizione ci parla del dirigibile come un oggetto quanto mai pericoloso, qui invece come mai, perché lei me l'ha detto, questi rischi tradizionali del dirigibile sono scomparsi? Allora, innanzitutto perché la tecnologia attuale è stata in grado comunque di far fronte all'emergenza, alle situazioni di emergenze, normative quindi diverse, consentono proprio di progettare in condizioni di emergenza. Quindi questo già ci conferisce un ampio margine sul progetto. Poi il fatto che questo dirigibile comunque abbia idrogeno come gas galleggiante non implica per forza che sia pericoloso. Per il semplice fatto che a 16 km di altitudine il gas, anche se si miscelasse con l'aria, essendo l'aria talmente rarefatta, non è in grado di diventare una miscela esplosiva. Quindi è completamente sicuro. Ecco, ma il modello poi di trasporto che un dirigibile come questo metterà in campo sarà un trasporto lento per viaggi più turistici? Non problemi di tratte da coprire con le nevrosi da business, oppure mi pare di sì, perché insomma è una nave, ma comunque si muoverà in quota portando dall'Europa all'Asia, per esempio? Non siamo competitivi con gli aeroplani per quanto riguarda la velocità, perché l'aeroplano raggiunge velocità transoniche. Per quanto riguarda però il nostro dirigibile, attualmente è in grado di poter volare a 100-150 km orari, per cui il servizio che offre questo sistema è sì anche di trasporto, ma è anche dal punto di vista di turistico, proprio in senso stretto, perché una persona che arriva su questo velivolo si trova un centro di intrattenimento, si trova dei ristoranti, si trova dei bar, si trova la palestra, per cui trova tutti i servizi che troverebbe proprio sulla nave. Anche una vista non da poco. Anche una vista non da poco. Senta, ma anche per trasporto però questo, anche merci. Per trasporto, certo, anche perché è in grado di trasportare soltanto come passeggeri 240 persone circa. Quindi se noi riusciamo comunque nel corso di 10 anni a ottimizzare tutto, e verrà fatto, noi possiamo garantire anche il trasporto di 30 tonnellate, quindi di merci, anche di più, ecco. Quindi tutto sta nell'ottimizzare i materiali e nel dimensionamento. Allora, noi però siamo partiti dicendo, adesso ci spiegheranno come da un dirigibile si arriva al cestello della lavatrice, con questa premessa, cioè che il vostro laboratorio ha questo progetto specifico del dirigibile come una delle sue principali attività, ma fa molto di più, e è da qui che arriviamo alla lavatrice. È un passaggio complesso, però ce lo spieghi. In realtà non è tanto complesso, perché la fenomenologia in gioco è la stessa. In pratica, per quanto riguarda questo velivolo, abbiamo pensato di utilizzare quello che si chiama effetto Coanda. Sostanzialmente è la possibilità di deviare il flusso d'aria in modo controllato, nel nostro caso, perché potrebbe essere anche non controllato, ma noi ovviamente, se vogliamo fare una cosa ingegneristica, lavoriamo su qualcosa che possiamo gestire. Quindi il flusso d'aria lo possiamo controllare, deviare a nostro piacimento. Ce lo spieghi bene però, controllare il flusso d'aria, un flusso che è prodotto da che cosa e che cosa serve il controllo? Allora, il flusso può essere prodotto da una ventola, non c'è combustione, non è necessario fare una combustione, possiamo riscaldarlo anche elettricamente, qua di energia per esempio ne abbiamo tanta, visto ci saranno i pannelli solari. Quindi, mentre invece per quanto riguarda il sistema in generale, è in grado di avere un ugello, quindi un ugello in cui l'aria può essere deviata sopra, sotto, destra, sinistra, semplicemente cambiando le portate in gioco all'interno quindi dell'ugello. Quindi per esempio con 2, 3 motorini, 4 motorini all'interno, elettrici, due intendiamo motorini come ventoline per esempio, cambiando la velocità di rotazione di due dei motorini, possiamo controllare la portata. Cambiando la portata noi abbiamo la deviazione del flusso. La deviazione del flusso permette di avere una spinta in una determinata direzione. Spingendo a determinata direzione abbiamo quindi una manovra da poter fare con il nostro velivolo. In sostanza, esattamente come noi possiamo deviare, oggi ci sono diversi velivoli, il jet, il motore a jet, dando delle spinte in diverse direzioni, qui però non abbiamo niente di combustibile classico, usiamo una sorgente di flusso d'aria e l'aria ci dà questa efficienza. Va bene, adesso dobbiamo avvicinarci mano a mano al cestello, perché questo tipo di applicazione potrebbe andare ben oltre quella delle spinte per velivoli. Certamente, perché una volta che noi controlliamo bene la direzione del getto e la potenza del getto, lo possiamo deviare tranquillamente anche all'interno di un contenitore cilindrico. L'effetto lo possiamo gestire tranquillamente, perché possiamo passare il fenomeno da grande scala a piccola scala. Questo significa che se noi non abbiamo più necessità di far girare un cestello per ottenere dell'acqua che gira, che pulisce, noi semplicemente con dei getti propulsivi controllati e deviati quindi ad hoc, possiamo ottenere lo stesso effetto di una lavatrice. Il cestello scompare il cestello che ruota, può rimanere comunque un cestello all'interno in cui comunque la biancheria viene posta. Cioè un cilindro nel quale la biancheria gira perché è spinta dall'aria. Certo. Dall'aria, dall'acqua in questo caso se deve pulire, certo. E quindi le applicazioni potrebbero arrivare? Sono innumerevoli, perché noi partiamo dalla lavatrice, solo un esempio, poi possiamo partire al condizionamento ambientale, perché non avendo bisogno di parti meccaniche in movimento, è soltanto quindi dei piccoli motorini o dei piccoli getti, perché in quel caso era l'esempio di motorini, nessuno vieta di poterlo fare con dell'aria compressa, quindi noi possiamo ottenere anche dell'aria condizionata senza utilizzare più le alette che spostano per generare turbolenza, no, dei getti deviati quindi in modo automatico, risparmiando anche dei costi, perché ovviamente se non ci sono parti complicate che hanno bisogno di manutenzione, ovviamente quindi andiamo anche a ridurre il costo dell'impianto. Bene, complimenti, auguri, un bel lavoro. Grazie, molto gentile. piacerebbe una crociera? Sì, sì, sì, la prenoterei, la prenoterei subito. 16 chilometri. Sì. Bisogna vedere un po' i prezzi, ma vabbè, insomma. La vedremo fra qualche anno. Allora, ricordiamo come contattarci qui, sì, a Mebius. Allora, se volete scriverci una mail per qualsiasi considerazione, per mandarci le vostre domande, le vostre perplessità, per criticarci anche, moebius@radio24.it. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook. Assolutamente, come Moebius ci trovano? Scienza, facile. E ci trovano, c'è anche il nostro sito però, Moebius Scienze, trovate anche www.moebiusonline.eu e poi Twitter ovviamente, Moebius_online, ma comunque ci trovate nella ricerca facilmente, e poi il nostro ultimo nato, il neonato blog. Il blog, mandate alla pagina di Radio 24, www.radio24.it, sopra in alto c'è la barra, c'è scritto blog, se cliccate ci trovate. Lì sopra ci trovate. Allora, buona settimana a tutti e a tutte.